ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي يا صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك واصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي ظلمة الا بوحدة الشعب بالله برجوع الارض ارضي تناديكم اشد على سمعوا الخدر المعادي بشد على الايادي بالايادي بساعد مع حم الموت قد مطابق بالصوت ورافض السكوت وصاحب عند الصوت ها وناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز ايماني بالحق رمز ارادة الشعب احكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريو اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة احكي فيتوريو احنا إلنا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا اناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض E ecco al 19:45 minuti primi dai microfoni di Radio Default va ora in onda Radio Cufia, una versione ridotta di Radio Cufia che andrà in onda sicuramente tutti i giovedì con il giornale radio degli aggiornamenti appunto sulle notizie sulla Palestina, dalla Palestina occupata, mentre come al solito ogni due settimane manterremo il nostro consueto appuntamento con i nostri approfondimenti, quindi questa oggi è un po' una prova con il solo GR visto che ce l'avete richiesto e ricordiamo i contatti della radio di Radio Default www.radiodefault.it per il nostro sito che fra poco tornerà arriverà online con una nuova versione 2.0 aggiornata e super tecnologica mentre per interventi in diretta c'è il nostro contatto Skype radio.default che per oggi è spento oppure contattateci sulla nostra pagina Facebook Radio Default e quindi ricordiamo anche a questo punto l'indirizzo di chi gestisce questa trasmissione che è l'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani e che è castelliperlapalestina.noblogs.org e quindi io ho parlato anche troppo e continuerò a parlare per i prossimi 20-25 minuti di giornale radio e quindi facciamo partire la sigla del GR. E novità dalla Palestina, si è chiusa la quarta assemblea del Comitato Nazionale BDS. Si è conclusa all'Università di Betlemme la quarta assemblea nazionale sul boicottaggio dell'entità sionista, intitolata quest'anno Boicottare Israele ed opporsi alla normalizzazione aiutano la liberazione, il ritorno dei profughi e l'autodeterminazione. All'assise hanno partecipato oltre 700 persone, rappresentanti dei comitati locali, di partiti, sindacati ed associazioni di donne. Non è mancato il sostegno da parte di figure nazionali ed internazionali, come Ahmad Sadat, Marwan Barghouti, Roger Waters dei Pink Floyd, Desmond Tutu, il cantante Marcel Khalifa e Hala Muanna, il giovane druso palestinese della Galilea che ha rifiutato di servire nell'esercito sionista. Durante la conferenza gli avventori hanno costretto alla fuga il ministro dell'economia nazionale, Jawad Naji, insofferente verso chi criticava le politiche di normalizzazione con l'entità sionista. In seguito uno dei contestatori riporta di essere stato picchiato dalla sicurezza dell'ANP. E passiamo ora alle notizie da Al-Quds, meglio conosciuta come Gerusalemme. Shirin Nizawi è sospesa dall'esercizio della professione. E le autorità dell'occupazione impediscono a Shirin Issawi, sorella del noto prigioniero politico Samir, di lavorare come avvocato. Issawi, arrestata nel 2010, era stata bandita dai tribunali per 3 anni. Il 12 luglio, alla scadenza del divieto, le è stato notificato un ulteriore allontanamento dalla professione per ulteriori 2 anni, per cosiddetti motivi di sicurezza. E allarme sfollati. L'OCHA, il coordinatore ONU per gli affari umanitari, ha dichiarato che le politiche di demolizione intraprese nel settore orientale di Al-Quds stanno creando un'emergenza sfollati in città. Attualmente quasi 2300 gerusalemitani stanno rischiando di perdere la propria abitazione, un terzo dei quali sono bambini. E un parcheggio minaccia ritrovamenti archeologici. Le forze d'occupazione hanno annunciato di voler costruire un parcheggio nel quartiere di Wadi Hilwa, a circa 50 metri dalla moschea di Al-Aqsa. L'area di 10.500 metri quadrati era stata espropriata dal municipio che vi ha ritrovato numerosi resti archeologici risalenti all'epoca bizantina, Omayyade, quindi dell'VIII secolo, e Abbaside, del X secolo, oltre a un cimitero di circa 100 tombe. L'edificio fa parte di un piano razzista molto più vasto, teso a giudaizzare la città di Al-Quds. E passiamo invece ora alla West Bank, dove riprende la cooperazione economica tra l'ANP e l'entità sionista. Il ministro delle finanze dell'ANP, Shukri Bishara, si è incontrato in Al-Quds occupata con il suo omologo sionista, Yahir Lapid. In seguito all'incontro è stata annunciata la ripresa della cooperazione economica tra le due parti. Oltre a discutere di investimenti congiunti e di scambi commerciali, l'entità sionista ha annunciato di voler riprendere a versare le tasse riscosse per conto dell'ANP. Questo incontro di normalizzazione economica è il primo da dicembre 2012, quando vennero interrotti per volontà sionista in seguito al riconoscimento della Palestina come membro osservatore alle Nazioni Unite. E rimaniamo in West Bank con le colonie che si sono ingrandite del 117%. In seguito ai dati riportati dal movimento Peace Now, il quotidiano sionista Haaretz ha pubblicato i dati del tasso di espansione delle colonie nel primo trimestre 2013. Secondo il giornale, il tasso di costruzione è aumentato del 117%, corrispondente all'incirca a 865 nuove unità abitative. Questi dati arrivano in concomitanza con la dichiarazione del ministro sionista della casa, Uri Ariel, che sostiene che dall'inizio dell'anno c'è stato un blocco delle costruzioni. Il blocco degli insediamenti illegali è una delle precondizioni poste dall'autorità nazionale palestinese per cominciare i cosiddetti colloqui di pace. E l'entità sionista costruisce le colonie, mentre l'ANP le sorveglia. Nabil Shaat, un ufficiale dell'OLP, ha dichiarato alla stampa sionista che l'autorità nazionale palestinese spende una grossa percentuale del suo scarso bilancio per proteggere le colonie dai combattenti della resistenza palestinese. Ha aggiunto che questa spesa è maggiore di quella per l'educazione e la sanità. E andiamo ora ad Al-Khalil, anche meglio conosciuta come Hebron, dove ci sono stati scontri con coloni ed esercito. Lunedì 17, infatti, un gruppo di coloni, scortato dall'esercito, ha assalito a colpi di pietre gli abitanti del campo profughi di Fawar, a sud di Al-Khalil. Alla risposta degli abitanti, l'esercito ha impiegato 40 veicoli militari e ha lanciato lacrimogeni. E rimaniamo sempre ad Al-Khalil, dove l'occupazione arresta un bambino di 10 anni. Il gruppo di Al-Khalil, l'International Solidarity Movement, informa che alle 20.30 del 16 giugno i soldati sionisti hanno arrestato Ahmed, un bimbo di 10 anni, nel mercato della città vecchia. Accusato di aver lanciato dei sassi, il bambino è stato trattenuto ed interrogato per un'ora, prima di essere riconsegnato alle forze di sicurezza dell'ANP. L'interrogatorio è avvenuto senza la presenza di un avvocato o di un familiare. E passiamo ora alla striscia di Gaza, dove fervono i preparativi per il convoglio delle brigate UNADICUM. Le brigate UNADICUM, un gruppo internazionale, sta organizzando una carovana di 15 giorni nella striscia di Gaza, il prossimo settembre, per azioni di interposizione, aiuto sul campo diretto ai contadini e ai pescatori e di sostegno alla resistenza contro l'occupazione. La partecipazione al gruppo si chiude il 10 luglio. Per maggiori informazioni inviare un'email a pugliapalestina@gmail.com o telefonare al 377-132-4124. E passiamo ora alle notizie provenienti dall'entità sionista. A Tel Aviv si è svolto il Pride del Pinkwashing. Il 7 giugno si è svolta a Tel Aviv la manifestazione del mese dell'orgoglio omosessuale, quest'anno finanziata dalle istituzioni sioniste con più di 150.000 euro. Si tratta di un uso cinico dei diritti degli omosessuali per distrarre l'attenzione dalle continue violazioni dei diritti umani che Israele compie contro il popolo palestinese e per normalizzare il sistema coloniale di apartheid che Tel Aviv ha creato sul terreno, afferma Al-Kaus, l'organizzazione dei queer palestinesi che da anni, insieme ad altre realtà come Palestinian Queers for BDS o Israeli Queers Against Israeli Apartheid, cercano di sensibilizzare la soggettività LGBTQI sulla doppia facciata di un paese che si maschera come gay friendly per nascondere le sue violazioni contro i palestinesi, anche omosessuali. Un esempio, continua Al-Kaus, da una parte Israele mostra tolleranza e apertura verso il mondo gay, dall'altra impedisce per legge il ricongiungimento familiare di una coppia palestinese se uno dei due coniugi vive in Cisgiordania. O ancora non permette all'interno dei suoi confini un matrimonio tra un ebreo e un non ebreo, ma solo tra due ebrei, in caso contrario ci si deve spostare all'estero. si tratta di razzismo che non ha nulla a che vedere con il rispetto dei diritti dei gay. Israele non sta promuovendo i diritti degli omosessuali, ma anzi li usa per giustificare un'occupazione militare, politica, economica e culturale. E il futuro dei palestinesi è in Giordania. Il deputato sionista Danny Denon, parlamentare del Likud, ha dichiarato che non esisterà mai uno Stato palestinese e che gli abitanti originari della Palestina sono dei coloni che dovrebbero vivere in Giordania. Quando l'intervistatore gli ha chiesto se intendesse annettere la West Bank, il deputato razzista ha risposto di no, ma che deve continuare l'opera di colonizzazione nelle cosiddette terre vacanti dei palestinesi. Ha aggiunto che gli ebrei in West Bank non sono coloni, ma sono cittadini a pieno titolo dello Stato ebraico, mentre i palestinesi dovrebbero essere considerati come dei coloni giordani. Ha chiuso l'intervista dicendo che molti suoi colleghi nella Knesset condividono la sua opinione, sebbene non l'esprimano pubblicamente. Generale ammette la pulizia etnica nel 48. Isaac Pondak ha ammesso in un'intervista di aver commesso crimini di guerra a sfondo razzista durante il conflitto che ha visto la nascita dello Stato ebraico. Pondak, un generale in pensione ed ex ambasciatore in Tanzania, ha dichiarato che sotto il suo comando sono stati distrutti dei villaggi palestinesi e per questo dorme sonni tranquilli. Il criminale di guerra ha aggiunto che senza la pulizia etnica oggi ci sarebbero più di 1 milione di arabi dentro l'entità sionista e che le guerre sono sempre state un modo per serrare i ranghi del popolo ebraico. E passiamo ora invece al fronte delle carceri, dove è un boom di scioperi della fame. Adamir, un'associazione di sostegno ai detenuti, comunica che nel 2013 c'è stata un'escalation di scioperi della fame individuali. Dall'inizio dell'anno sono stati 33 i detenuti che per vari motivi hanno rifiutato il cibo, mentre attualmente ce ne sono ben 13. Chi rifiuta il cibo viene portato in ospedale senza la possibilità di contattare i familiari. L'ultimo è Ghassan Alian, 22 anni, che ha deciso di scioperare contro la decisione di riarrestarlo. Liberato in cambio del soldato sionista Gilad Shalit insieme a migliaia di altri prigionieri, Ghassan afferma che la sua detenzione amministrativa è solo un modo per fargli scontare il resto della sua condanna, in barba agli accordi presi dall'entità sionista. E passiamo agli esteri, in Svezia, che potrebbe tagliare i fondi all'ANP. Il ministro della cooperazione internazionale svedese ha dichiarato infatti che il suo paese potrebbe ridurre del 30% i fondi versati all'autorità palestinese. Motivo del taglio è che la finalità dei fondi è di aiutare l'ANP a costruire lo Stato di Palestina, aiuto inutile visto che le parti non intendono iniziare i cosiddetti colloqui di pace. Ecco un ennesimo simbolo di come il cosiddetto aiuto allo sviluppo sia solo un metodo di influenza politica che prevarica le decisioni dei popoli. E l'ex ambasciatore sudafricano rifiuta il greenwashing. Ismail Kovadia, ex ambasciatore sudafricano a Tel Aviv, ha dichiarato di aver rifiutato di far intitolare 18 alberi in suo onore. Difatti, il Fondo Nazionale Ebraico ed il Ministero degli Esteri dell'entità sionista nel 2005 hanno inaugurato nel Negev occupato la Foresta degli Ambasciatori, che giace sulle rovine del villaggio beduino di Al-Arakib. In questa foresta dedicano parte della flora ai vari ambasciatori che hanno prestato servizio nello Stato ebraico. L'ambasciatore comunica in una lettera al Comitato Nazionale Sudafricano del boicottaggio contro Israele che il fatto di avergli intitolato quegli alberi senza consultarlo è un'offesa alla sua dignità e alla sua integrità, considerando anche che quella è una terra espropriata e rubata. E quindi si chiude qui oggi questo nuovo esperimento di Radio Cufia, Radio Cufia 0,5, con il GR, con la lettura del nostro GR settimanale. Noi vi ricordiamo sempre che la Radio Cufia continuerà ogni secondo e quarto giovedì del mese a proporvi i suoi approfondimenti sulle tematiche, i suoi approfondimenti e le sue analisi sulle tematiche che riguardano l'occupazione sionista della Palestina. Vi diamo appuntamento dunque alla settimana prossima con la trasmissione più corposa, che vedrà la presenza in studio dei giovani palestinesi di Roma, che intervisteremo per farci spiegare, per farci dare qualche notizia su cosa pensano, su questo frammento di lotta internazionalista nella nostra città. Noi sono le 20:03 minuti primi, noi vi lasciamo alla scaletta di Radio Default, dopo forse vi sarà anche la trasmissione Rise Up alle 9:30. Ricordiamo i contatti della radio: www.radiodefault.it e il nostro account Skype radio.default, dove potrete intervenire in diretta e fare domande o interventi, appunto, anche soltanto imprecazioni e minacce. Mentre magari non lo fate sul nostro profilo Facebook Radio Default, che invece le minacce sono molto più rintracciabili e quindi anche più facilmente denunciabili. Ricordiamo infine che questa trasmissione Radio Cufia è gestita dall'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che ha un blog con numerose traduzioni di articoli e con il calendario delle iniziative passate, e lo trovate su castelliperlapalestina.noblogs.org. Noi vi lasciamo con la nostra sigla e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre alle 19:30. Buona libertà a tutte e a tutti. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي أراضيكم أشد على صاحب العرض وغربي فلسطين تبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد تتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارضي تناديكم اناديكم اشد على سمعون خدر المعادي هشت على الايادي ايادي مساعد محم الموت مطابق بالصوت رافض السكوت وصاحب علم الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى اناديكم اشدوا على السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل ونادي